Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il commesso di Bernard Malamud, traduzione di Giancarlo Buzzi. Era quasi la mezza e nel fresco incanto della notte, con un senso di pena per qualcosa che aveva perduto, Helen si affrettava nel parco illuminato dai lampioni. Quel mattino, quando era uscita in strada indossando un abito nuovo sotto il vecchio cappotto, la fragranza della giornata le aveva strappato le lacrime ed Helen aveva sentito di essere veramente innamorata di Frank. Qualunque cosa le riservasse il futuro, non le avrebbe potuto cancellare quel senso di sollievo e di appagamento che aveva provato allora. Alcune ore dopo, con Nat Pearl, fermi a bere qualcosa in un bar lungo la strada e poi, dietro l'insistenza di Nat, alla volta di Long Island, i pensieri di Helen erano ancora per Frank ed ella era impaziente di ritrovarsi con lui. Nat era quello che era e quella sera si esercitava a sfoggiare il suo charme. Parlava e si lasciava ferire con grazia. Lo ritrovava immutato dopo tutti i mesi in cui non era stata con lui. Mentre erano fermi con la macchina sulla riva buia a guardare dall'alto lo stretto punteggiato di stelle, dopo alcuni preliminari di seduzione, Nat le aveva cinto la vita col braccio. «Helen, come possiamo dimenticare il piacere che abbiamo avuto in passato?» Lei lo respinse incollerita. «È passato e l'ho dimenticato, e dovresti dimenticarlo anche tu, se fossi un vero gentiluomo. Credi di aver ipotecato il mio avvenire andando a letto con me un paio di volte? Helen, non parlare come un'estranea, per Dio. Sii umana, sono umana, cerca di ricordartelo. Una volta eravamo buoni amici, vorrei che lo fossimo di nuovo». «Perché non ammetti che per amicizia intendi qualcos'altro?» «Helen, no!» Nat si rimise a sedere al posto di guida. «Cristo, sei diventata un tipo sospettoso!» «Le cose sono cambiate», disse Helen. «Devi rendertene conto». «Per chi sono cambiate?» chiese lui in tono ostile. «Per quell'italianuccio con cui ti sei messa?» Helen si fece di ghiaccio. Rincasando, Nat cercò di rimangiarsi quello che aveva detto, ma Helen si limitò ad augurargli in fretta la buonanotte. Si separò da lui con sollievo e con un'acuta sensazione di tutto quello che aveva perduto della notte. Preoccupata di aver fatto aspettare tanto Frank, si diresse in fretta al luogo di ritrovo, attraverso la piazza illuminata e poi lungo un vialetto ghiaioso fiancheggiato da alti lillà. Mentre si avvicinava alla panchina, cresceva in lei il timore di non trovarlo all'appuntamento, ma cercava di scacciarlo. Rimase dolorosamente delusa, scoprendo che sebbene ci fossero altre persone, Frank non c'era. Che fosse già venuto e se ne fosse andato, non le pareva possibile. Aveva sempre aspettato prima, per quanto lei tardasse, e siccome gli aveva detto di avere qualcosa di importante da dirgli che adesso sapeva di amarlo, era certa che Frank avrebbe voluto ascoltarla. Si sedette, temendo che gli fosse capitato un incidente. Di solito in quell'angolo erano soli, ma il tenue tepore di quella notte di fine febbraio aveva richiamato gente. Su una panchina diagonalmente opposta a quella di Helen, nell'oscurità dei rami coperti di gemme, sedevano due giovani innamorati avvinti in un lungo bacio. La panchina a sinistra di Helen era vuota, ma sull'altra più in là un uomo dormiva alla luce vaga di un lampione. Un gatto andò a fiutare la sua ombra e se ne andò. L'uomo si svegliò con un grugnito, gettò un'occhiata furtiva a Helen, sbadigliò e si rimise a dormire. Gli innamorati finalmente smisero di baciarsi e si allontanarono in silenzio, Il giovane, seguendo timidamente la ragazza felice, Helen la invidiò profondamente. Un brutto sentimento per concludere la giornata. Diede un'occhiata all'orologio e vide che era quasi l'una. Rabbrividì e si alzò. Poi si rimise a sedere con l'intenzione di aspettare ancora 5 minuti. Sentiva le stelle compatte come un peso lontano sopra di lei. Disperatamente sola, rimpiangeva la grazia primaverile della notte. Le si era guastata tra le mani. Il desiderio e l'inutile attesa l'avevano prostrata. Dinanzi a lei, sulle gambe malferme, stava un uomo corpulento, sudicio, puzzolente di whisky. Helen si alzò a metà, invasa dalla paura. Lui si toccò la tesa del cappello e disse seccamente: «Non aver paura di me, Helen. Personalmente sono un ragazzo come si deve. Mio padre è un poliziotto. Ti ricordi di me, no? Ward Minogue, tuo compagno di scuola. Il mio vecchio una volta me le ha suonate nel cortile delle ragazze. Sebbene non lo vedesse da anni, riconobbe Ward e subito si ricordò di quando lui aveva seguito una ragazza in un gabinetto. Istintivamente Helen alzò il braccio per proteggersi. Si trattenne dal gridare perché, se avesse gridato, lui sarebbe stato capace di saltarle addosso. È stupido, pensò, aspettare per questo. Mi ricordo di lei, Ward. Posso sedermi? D'accordo, disse Helen dopo un attimo di esitazione. Si scostò il più possibile da lui. Ward aveva un'aria da ebete. Se avesse abbozzato un movimento, lei si sarebbe messa a correre gridando. Come ha fatto a riconoscermi al buio? Disse fingendo noncuranza, ma guardandosi intorno di soppiatto per scoprire una via di scampo. Se avesse potuto arrivare dietro gli alberi, avrebbe dovuto fare ancora 6 o 7 metri lungo il sentiero prima di uscire all'aperto. Nella piazza ci sarebbe stato qualcuno cui chiedere soccorso. Solo Iddio può aiutarmi, pensò. Come va il tuo amico Frank Alpine? Chiese Ward strizzando gli occhietti umidi. Conosce Frank? Disse meravigliata Helen. È un mio vecchio amico, rispose lui. Era qui. Ti cercava. E non gli è successo nulla? Non era proprio su di giri, disse Ward. Ha dovuto andarsene a casa. Adesso devo andare. Helen si alzò, ma lui era già in piedi. Buonanotte. Helen si scostò da lui. Mi ha detto di darti questo biglietto. Ward ficcò la mano nella tasca della giacca. Helen non gli credette, ma esitò abbastanza per dargli il tempo di venirle vicino. L'afferrò con stupefacente rapidità, soffocando il suo grido con la mano puzzolente mentre la trascinava verso gli alberi. «Voglio soltanto che tu mi dia quello che dai a quell'italianaccio», grugnì Ward. Helen scalciò, graffiò, gli morsicò la mano, riuscì a liberarsi dalla sua stretta. Ward l'afferrò per il colletto del cappotto e glielo strappò. Lei strillò ancora e corse avanti, ma lui le piombò addosso e le mise il braccio sulla bocca. La spinse rudemente contro un albero, mozzandole il respiro. La tenne stretta alla gola e con l'altra mano le strappò di dosso il cappotto e le lacerò il vestito sulla spalla, scoprendole il reggiseno. Helen si dibatté e scalciò selvaggiamente, riuscì a colpirlo col ginocchio tra le gambe. Ward urlò e la percosse in viso. Helen sentì che le forze le venivano meno e lottò per non svenire. Sentì il corpo di Ward tremare contro il suo. «Sono disgraziata», pensò, eppure si sentiva stranamente libera dalla sua lurida presenza, quasi che lui si fosse dissolto in un recipiente di immondizie e lei l'avesse buttato via con un calcio. Le si piegarono le gambe e scivolò a terra. «Sono svenuta», le passò nel cervello, sebbene sentisse di stare ancora lottando con lui. Vagamente si accorse che accanto a lei si battevano. Udì il rumore di una percossa, Ward Minogue urlò di dolore e si allontanò barcollando. «Frank!» pensò Helen tremando di gioia. Si sentì sollevare gentilmente e seppe di essere tra le sue braccia. Si inghiozzò di sollievo. Frank le baciava gli occhi, le labbra, il seno mezzo scoperto. Lo strinse con tutte e due le braccia, piangendo, ridendo, mormorandogli che era venuta per dirgli che lo amava. Frank la posò a terra. Si baciarono sotto gli alberi scuri. Helen sentì sulla sua lingua un sapore di whisky e per un attimo ebbe paura. «Ti amo, Helen», mormorò Frank, cercando goffamente di coprirgli il seno con l'abito strappato e portandola più addentro, nel buio, oltre gli alberi dove non giungeva la luce delle stelle. Le loro ginocchia si piegarono sulla terra d'inverno ed Helen sussurrò: «No, amore, non adesso, ti prego». Ma lui le diceva della sua passione e del suo desiderio, dell'attesa a non finire che gli spezzava il cuore. Anche adesso, mentre le stava parlando, la pensava irraggiungibile, per sempre nella stanza da bagno con lui che la spiava. E allora, baciandola, pose fine ai suoi tentativi di difendersi. Poi lei gridò: «Cane! Cane incirconciso!» Il mattino dopo, mentre Morris se ne stava seduto solo nel retro, un ragazzo entrò in negozio e lasciò sul banco un volantino rosa. Morris lo prese e vi lesse l'annunzio del mutamento di direzione del negozio di alimentari dell'angolo e della sua riapertura per il prossimo lunedì con la nuova gestione Tast e Pederson. In grandi caratteri di stampa seguiva un elenco di specialità che sarebbero state offerte durante la prima settimana. Morris non avrebbe mai potuto concorrere su quel piano, perché non avrebbe potuto sostenere la perdita che i norvegesi progettavano di affrontare. Gli sembrò di trovarsi in una corrente gelata che soffiava nel negozio da qualche foro nascosto. In cucina mise le gambe e le natiche contro la stufa a gas, ma gli ci volle lo stesso un'eternità per attenuare il freddo che gli era penetrato nelle ossa. Frank Alpine, dopo una lunga notte piena di incubi, si svegliò gemendo. Si svegliò con un grido e gli parve di essersi destato per sempre. Il suo primo impulso fu di balzar giù dal letto e di correre in negozio, ma si ricordò che Morris l'aveva buttato fuori. Era una grigia, desolata mattina d'inverno. Frank giaceva nel letto col capo sotto le coperte e cercava di soffocare i pensieri che sfuggivano invece al suo controllo e mandavano un cattivo odore. Più cercava di soffocarli, più puzzavano. Sentiva nel letto odore di pattume e non poteva uscirne. Non poteva perché era lui stesso il fetore. Il fetore era dentro il suo naso rotto. Il cattivo odore che uno ha sono le azioni che ha commesso. Incapace di sopportarlo, buttò via le coperte, fece uno sforzo per vestirsi, ma non ci riuscì. La vista dei suoi piedi nudi lo disgustò profondamente. Aveva una voglia terribile di fumare, ma non aveva il coraggio di accendere una sigaretta per timore di vedere la propria mano. Chiuse gli occhi e accese un fiammifero. Il fiammifero gli bruciò il naso. Mise il piede nudo sul fiammifero acceso e saltellò per il dolore. «Oh, signore, perché l'ho fatto? Perché mai l'ho fatto? Perché?» I suoi pensieri l'uccidevano, non riusciva a sopportarli. Sommerso dai suoi pensieri, sedette sull'orlo del pagliericcio, tenendosi la testa tra le mani. Gli sembrava che dovesse scoppiargli da un momento all'altro. Voleva scappare. Parte della sua persona stava già scappando, non sapeva dove. voleva solo scappare, ma mentre scappava voleva tornare indietro ed essere di nuovo con Helen per farsi perdonare. Non chiedeva troppo. Se gli esseri umani non si perdonavano a vicenda, chi altri lo poteva fare? Gli avrebbe spiegato tutto se solo lei l'avesse ascoltato. Spiegarsi è un modo per accostarsi a qualcuno cui si è fatto del male, quasi che facendogli del male gli si dia un motivo per amarci. Le avrebbe detto di essere andato nel parco per aspettarla, per sentire cosa aveva da dirgli. Pensava di sapere che lei avrebbe detto che lo amava, e ciò significava che presto sarebbero andati a letto insieme. Aveva questo pensiero in mente e sedeva là, aspettando di sentirglielo dire, temendo al tempo stesso che lei non glielo dicesse mai, temendo di perderla nel preciso istante in cui Helen avesse scoperto per quale motivo suo padre l'aveva cacciato dal negozio. Come poteva spiegarle tutto ciò? Era rimasto seduto per ore cercando di pensare a cosa avrebbe detto e infine gli era venuta fame. A mezzanotte si era allontanato con l'intenzione di andare a mangiare una pizza, ma si era fermato in un bar. Poi, quando si era vista allo specchio, aveva provato un'acuta sensazione di disgusto. «Sei mai uscito dal tuo giro vizioso?» aveva chiesto la sua immagine. «Non hai forse sempre e soltanto scelto la strada sbagliata?» Quando era tornato nel parco, c'era Ward Minogue che le faceva del male. Aveva quasi accoppato Ward. Poi, quando aveva avuto Helen tra le braccia, che piangeva e diceva finalmente di amarlo, aveva avuto la disperata sensazione che questa era la fine e che non l'avrebbe mai più rivista. Aveva pensato che doveva possederla prima di perderla. Helen diceva di no, di non farlo, ma lui non poteva credere che fosse così nell'attimo stesso in cui lei gli diceva di amarlo. Quando comincerò, pensava, mi asseconderà. E così l'aveva fatto. L'aveva amata con il suo amore. Helen avrebbe dovuto saperlo. Non avrebbe dovuto infuriarsi, battergli i pugni in viso, rivolgergli parole ingiuriose, scappare via da lui, dalle sue scuse, dalle sue implorazioni, dal suo dispiacere. Dio mio, cosa ho fatto? Aveva sbagliato una volta di troppo. Avrebbe dovuto fermarsi a un certo momento e cambiar vita, cambiare la sua sorte e se stesso, smetterla di odiare il mondo, procurarsi un'istruzione decente, un lavoro, una bella ragazza. Aveva vissuto senza volontà, aveva tradito tutte le buone intenzioni, aveva mai confessato a Morris di aver preso parte alla rapina, non aveva forse rubato dalla cassa fino a quando si era fatto sorprendere? Con un solo terribile gesto nel parco non aveva assassinato la sua ultima speranza, l'amore che per tanto tempo aveva atteso, la possibilità di un futuro migliore. La sua maledetta esistenza l'aveva spinto in tutte le direzioni senza condurlo da nessuna parte. Era in balia di ogni soffio di vento. Non possedeva nulla. La stanza diventava sempre più piccola. Il letto gli veniva addosso. Si sentiva in trappola, stava male. Voleva gridare, ma non poteva. Pensò di uccidersi. Ma proprio in quel momento ebbe un'intuizione terribile, che per tutto quel tempo non aveva agito secondo natura, che in realtà era un individuo di rigida moralità. Svegliandosi di notte, Ida aveva sentito piangere la figlia. Ned le aveva fatto qualcosa, pensò con ira, ma si vergognava di andare da Helen a chiedere cos'era. Forse lui si era comportato in maniera villana. Non c'era da meravigliarsi che Helen avesse smesso di uscire con lui. Tutta la notte seguitò a rimproverarsi per aver spinto Helen a uscire con quello studente. Con quel dispiacere si addormentò. Stava schiarendo quando Morris scese in negozio. Helen si alzò con gli occhi arrossati e sedette nel bagno a cucire il colletto del cappotto. In un secondo tempo l'avrebbe fatto aggiustare da un sarto nei pressi dell'ufficio perché lo strappo non si vedesse. Per il vestito nuovo niente da fare. Lo arrotolò e lo nascose sotto gli altri oggetti nel cassetto più basso della scrivania. Lunedì ne avrebbe comprato uno identico e l'avrebbe appeso nell'armadio. Spogliandosi per fare una doccia, la terza in poche ore, scoppiò in lacrime alla vista del suo corpo. Tutti gli uomini che si accostavano a lei la insudiciavano. Si insaponò abbondantemente sotto la doccia, piangendo mentre si lavava. Alle 7, prima che sua madre si svegliasse, si vestì e uscì di casa, sentendosi troppo male per mangiare. Le sarebbe piaciuto dimenticare i suoi dispiaceri dormendo, ma non osava rimanere a casa col rischio di sentirsi rivolgere delle domande. Quando fosse ritornata dalla sua mezza giornata di lavoro, se Frank era ancora là, gli avrebbe ordinato di andarsene o avrebbe gridato per farlo andar via.